che non compaia che la formazione a distanza sia il male assoluto, non lo è affatto. Nei momenti di difficoltà ha permesso di mantenere il collegamento continuo con tutti i nostri studenti e per molti studenti è stata una grande risorsa e lo sarà anche magari in futuro in quelle situazioni in cui sarà necessario. Quindi non stiamo in nessun modo né colpevolizzando né demonizzando uno strumento che è stato fondamentale in questi 2 anni difficilissimi. L'opzione che abbiamo scelto, l'abbiamo scelto in maniera molto chiara, l'abbiamo scelto a marzo dell'anno scorso, l'abbiamo scelto a settembre, lo stiamo scegliendo con grande coerenza anche oggi, è quella di privilegiare le attività in presenza. Però con l'indicazione che dava prima il ministro Speranza, bisogna anche dare un segno forte, che l'elemento vero di sicurezza è la vaccinazione. Abbiamo un problema che vi pongo io stesso, perché ce lo siamo posti, introducendo quel momento in poi l'opportunità per chi è vaccinato di essere a scuola, segnalando per chi non è vaccinato una condizione diversa. Vi è un'attitudine, anche nascosta, da parte del governo di discriminare fra i bambini? La risposta è no, assolutamente no. Sicuramente non da parte mia, non da parte di Roberto, non da parte del Presidente. Vi è però una chiara indicazione, c'è un'indicazione di marcia. C'è il riconoscimento nei confronti di quelle famiglie che già hanno fatto questa scelta, e sono tante. Vi è, dall'altra parte, la necessità di accelerare, e qui parleremo col commissario Figliuolo, col generale Figliuolo, di accelerare la disponibilità, posto che non vi è carenza di vaccini, della possibilità di dare a tutti i nostri bambini e alle nostre bambine questa opportunità. D'altra parte, vi ricordo che nel concetto stesso di vaccinato ci sono anche i guariti, e questo fa aumentare di molto il numero. I guariti sono immunizzati, questo ci dicono i nostri tecnici. E quindi alla percentuale che è cresciuta molto in questo periodo di bambine e bambine vaccinate, abbiamo aggiunto anche i bambini e le bambine guarite, che quindi possono permetterci di questo.